qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo. Minuti primi. Le frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. La moderazione di frequenza della banda romana e laziale. Questa notte di una San Lorenzo insolitamente spopolata. O comunque sottopopolata rispetto alla media. Sapete perché? C'è anche maltempo, la pioggia stasera, insomma. Qualche tempo fa lo dicevamo, la società governata dal terrore. Lasciamo lì questa cosa, questo incipit, questo pensiero. Lo lasciamo sottostante. Non ci aggiungiamo senz'altro ai cori e alle lamentele. Siamo qui per metter musica. Per mettere dischi di qua e di là sui lettori davanti al mixer. Lo facciamo grazie anche a voi che sostenete questa emittente per tutto quello che cerca di fare e che fa. Sul piano della informazione e della controinformazione, come si diceva un tempo, della cultura e della controcultura. Sulla comunicazione di chi non ha voce, che trova questa radio come megafono, come amplificatore, come repeater che riflette la voce delle lotte. Per il sostegno di Radio Onda Rossa, per la sua gestione economica opulata e necessaria e sufficiente, abbiamo da un 3 anni chiesto, sia un paio d'anni, il crowdfunding di 3 anni fa era quello relativo. All'amplificatore nuovo di Radio Onda Rossa, dicevamo, abbiamo lanciato questa campagna di radio abbonamento, di crowdfunding, quindi la possibilità di sottoscrivere per la radio attraverso internet da casa tranquillamente, oppure di venire alle iniziative della radio, oppure infine di venire qua in radio stessa al primo piano di Via dei Volsci e portare o farci avere 30 euro. La nostra scommessa e la vostra scommessa è di raggiungere 1000 persone che sostengono in un anno intero di Onda Rossa grazie alla quota di 30 euro sottoscritta. E questo ci permette di vivere tranquillamente. Per un anno sentite i spot che vanno in automatico e vi ricordiamo, vi rammentiamo, qualora ancora non aveste sostenuto Radio Onda Rossa, di farlo appena possibile, appena avete il denaro, appena avete l'occasione e la possibilità. Il crowdfunding non dura in eterno e soprattutto la radio ha comunque urgente bisogno di soldi, perché come dicono lo spot, gli spot, le bollette non cessano mai di arrivare.

3-4 minuti primi, un principio, un inizio, tutto all'insegna dell'inferno. Siamo partiti con l'inferno della tendopoli, quello in terra, quello dei dannati, degli schiavi della terra. Quello descritto da Pat nella sua propaganda, perché è proprio quello lo strumento dell'inferno, la propaganda. Dell'inferno quello qua in terra, dove non occorre aver commesso dei peccati. Per finirci dentro basta stare dall'altra parte di un confine. E così ce lo racconta Pat nel suo propaganda, l'inferno della tendopoli di San Ferdinando, l'inferno che però gli uomini e le donne che lo abitano continuano a combattere per farlo, per fare diventare questi posti, per avere diritti che possano rendere la vita degna. E poi Johnny Cash. Con la sua Sam Hall, che è la storia di un tizio che l'accusano, insomma, non si sa bene nel testo se sia lui davvero colui che ha ucciso un uomo spaccandogli la testa, ma comunque deve scappare, deve correre perché è ricercato e trova la sua Molly. E gli racconta questa vicenda, le chiede di andare con lui ed infine incontra lo sceriffo che gli dice: ciao Sam, come stai? E lui risponde: ciao sceriffo, come stai tu? Evidentemente se lo vuole portar via. E finisce appunto con una dannazione. Ci vediamo tutti all'inferno. Questo è Johnny Cash, Sam Hall. E poi l'ammaliante visione dell'inferno fatta di sesso, droga e rock and roll. Un inferno voluttuoso che sembrerebbe piacevole nella versione The Rolling Stones, ovviamente storica del 1968, Sympathy for the Devil. Ed ora passiamo a un altro inferno, anzi pare che si narra, si dice che lui abbia fatto un patto col diavolo. Certo non gli ha permesso di fare una vita lunga, morto a giovanissimo, insomma nel 1938, dopo aver inciso solamente negli ultimi anni della sua vita le testimonianze di quello che andava suonando e cantando in giro, forse andando indietro colui che ha buttato il seme per creare tutto questo che stiamo ascoltando oggi e che ascoltiamo da molti anni. Stiamo parlando di Robert Johnson, un nero di giù del delta del Mississippi, del suo blues così articolato, insolito. Eccolo qua con una cosa invece che conoscete tutti e che ha inventato lui, Robert Johnson. Chicago. somebody gonna get you. Been a son of a trick, but I'm crying, baby. Honey, don't you want to go? Back to the land of California, to my sweet home, Chicago. I'm fixing to his eight, getting to his ten. Friend watched a tricky one time. She sure gonna do it again, and I'm crying, hey, baby, don't you want to go to the land of California, to my sweet home, Chicago. I'm going to California, from further than a mile far away. Somebody will tell me that you need my help someday, son. Un saluto perciò a chi conduce Blues Night il venerdì alle 10. Spider Big Max. Sweet Home Chicago nella versione dei Blues Brothers. Elwood e Jake. E ci chiediamo perché da un po' di anni a questa parte, intorno a Natale, non trasmettono più The Blues Brothers. La notte di Natale o dintorni era l'unico motivo che ci faceva piacere in quella festa. Rimaniamo nel blues, ma molto, molto, molto distorti. I know where I'm going Quando il blues si incontra con il punk più distorto, Joe Spencer Blues Explosion, Chicken Dog, 25 o'clock, Radio da Rosso 87.9 della moderazione di frequenza della banda romana e laziale 0649175050, recapito telefonico www.ondarossa.info, il sito della radio. Inquina di più un chilo di carta o un chilo di byte? Dibattito su ecologia e digitale, giovedì 27 febbraio, cioè domani, a Strike S.P.A. via Umberto Partini. Alle 19 presentazione e dibattito durante l'iniziativa Cucina in Funzione, benefit per Radio Onda Rossa. Verso l'HAC Meeting 2020, 9 e 12 luglio al XOA Forte Prenestino. E ci permettiamo anche di dare una risposta all'interrogativo proposto dal dibattito di domani. Presentazione e dibattito. Crediamo che inquini di più un chilo di byte, anche se questa cosa, insomma, sembrerebbe la risposta meno accettata e meno probabile, ma per far girare un chilo di byte per il pianeta occorrono un sacco di nodi, un sacco di fili, un sacco di fibre, un sacco di apparati, un sacco di condizionatori, perché questi apparati si scaldano e è necessario raffreddarli. E così abbiamo cercato di stuzzicare un po' il vostro appetito, sia di curiosità digitale e sia appetito invece proprio quello vero di fame, per farvi venire tutte e tutti domani a Strike S.P.A. Sì, Joe Spencer Blues Explosion sotto la nostra voce, è difficile sempre da staccarsi, ma lo facciamo ancora, rendendo più crude le sonorità. Ce ne andiamo più o meno, dovremmo essere in quegli anni lì, questo dovrebbe essere un disco degli anni 90, se non andiamo errati, nel frattempo ci cade. Del 1997, senza, l'abbiamo raccolto sulla carta, senza ricorrere ai byte e alla rete, questa è informazione. 1997, Now I Got Worry, il lavoro che stiamo ascoltando. E dicevamo, rimaniamo negli anni 90-1992, un altro incrocio magico, o meglio infernale. Zeni Jeva con Steve Albini in Giappone. Producevano questo Maximum Implosion. La quarta traccia è quella che non appartiene al repertorio di Zeni Jeva, cui Steve Albini faceva da chitarrista, e questa appunto è Angel, quarta traccia. Onda Rossa, 25 o'clock. dire il vero siamo un po' preoccupati, perché questa del 2018 è l'ultima uscita per Buzzorn. Dave Crover e soci, Melvins, che ci hanno abituato a una, due pubblicazioni all'anno, al massimo ne saltano uno, ma poi escono fuori sempre con toni altissimi. Non si hanno notizie discografiche dei Melvins da 2 anni. Staranno male, forse a 34 anni. Hanno deciso di aver raggiunto l'età per andare in pensione, chissà. Dalla metà degli anni 80 oggi. .23:38, minuti primi, 25 o'clock, e adesso stiamo un po' zitti. Non prima di avervi ricordato un'altra iniziativa Strike, in quel dell'Ardente, la taverna bandita di Strike, Gran Boga, Antifascif, Dr. Surf Punk, Rap, Mandolin, Taste the Floor, Trash Corda Roma, cena a cura della taverna bandita, l'Ardente a sostegno di realtà e progetti di lotta. Buon cibo a prezzi popolari, giovedì 27 febbraio. Dalle 20 presso Strike SPA, via Umberto Partini 21, ingresso a sottoscrizione libera. E adesso partiamo con una selezione che chissà dove ci porterà. Let's smash, let's win. Tom Morello, Boots, really. Well, as a matter of fact that I'm a dour neighbor. But Street Sweeper Social Club. And I may not be able to predict my demise. Took better will be on my knees. I'm rapping at the speed of the falling dollar. They got grit to make you crawl and holler. Soul school like Easy Impala. Hey, you gon' lead us smoke trees and father. Let's fight, let's smash, let's win. We gon' fight, we gon' smash, let's in. Let's fight, let's smash, let's win. Just like getting up in the club with a fake ID. If don't work, we gon' do it again. Senza alcun pudore, ma questa è roba per i vivi, a me non interessa che sono solo un altro tossico crepato in cella. Il mio boia non ha nome né ragione, il mio boia ha solo fatto il suo dovere. Una divisa blu come una notte scura e quattro bocche da sfamare come alibi al terrore che sa dare. Il mio boia non ha nome né ragione, il mio boia ha solo fatto il suo dovere. Una divisa blu come una notte scura e quattro bocche da sfamare come alibi al terrore che sa seminare. Il tempo che passa, i morsi sui polsi, non piangersi addosso, ma corrersi appresso, non piangere adesso, ma correre basta, le unghie, le mani, le facce, le braccia, noie e lettere d'amore, dolore per cacciare il dolore, muscoli tesi, pugni serrati e presi, le notti di veglia, le bocche cucite, sussurri e le urla, ortiche fra le mani, sogni di sole e melograni, in 7 metri quadrati ad aspettare domani. Mercurio, cromo e bruno, segni sul corpo e sul muro, dimenticare di respirare dai primi sintomi, e se compare ormai è solo negli incubi, e se campare aggiungici una fetta d'arancia, il conto dei giorni e le fitte alla pancia, primavera solo fuori da questa stanza. Il mio boia non ha nome né ragione, il mio boia ha solo fatto il suo dovere. Una divisa blu come una notte scura e quattro bocche da sfamare come alibi al terrore che sa dare. Il mio boia non ha nome né ragione, il mio boia ha solo fatto il suo dovere. Una divisa blu come una notte scura e quattro bocche da sfamare come alibi al terrore che sa seminare. Che sa seminare. Durante la resistenza va a finire che una sera dietro l'altra, con questa storia che continua va a finire che una sera dietro l'altra. Una passione che mi serve nel cuore, magari una passione che mi serve nel cuore, va a finire che una sera dietro l'altra, con questa storia che continua va a finire che una sera dietro l'altra.

touch, pushed out past the edge of my dreams. Log on forever, dope fiends, swiping screens. Lightbox reflex and froze like a meme. Moonlit meetups, the codes is extreme. Devil dancing, death romance and ice glances. Chronic placement, slowly racing, dipping out the basement with the A1. Till the day's done, first the blade swung, then the case spun. Young hustler. And then clear it out. Young hustle, green jewels look like cereal.

culture, music, I sing. We blow chatting and be rules tracking. Free King Sound, Young International. God be so when I hit a special, special. Free King International. Don't you know what this is sounding no partial? Mr. Chin loves the way that I sing. And him not so fast that music I bring. Mr. Chung wanna buy Fimi song. Buy Errol Miller song all day long. They don't know say we have a free the king Rastafari song. Ever living sure. Roots gone international. Cause this is how we know really, really partial. minuti dopo la mezzanotte ci apprestiamo a chiudere. Abbiamo insistito su questi suoni Street Sweeper, Social Club, Fight Mess Win, La Furia, piena voce, Il Mio Boia, Salti Frontali in Movimento, Zephyr Mods, Subtraction, Battles. IZZM. Future Shabbats Babies, Daniel Lupatin. In arte Oneatrix Pointer Never. Dalla colonna sonora di Good Time, The Acid Mist, Terra Nova, Priest, Disorientation, Oracle e Maxwell MSI, Kank C-Corp, poi LV, Fiat, Errol Bellot, Globetrotting, Chiavi Corporation, sotto la nostra voce ancora, Warning Shot, e quindi alla chetichella ce ne andiamo, non prima di avervi ricordato il palinsesto della radio che proseguirà dopo la compagna automatica sonata. Con le sue selezioni e le sue repliche riprenderà domani mattina. Con la lettura delle prime pagine, la rassegna stampa, la rassegna stampa cittadina, i redazionali della mattina. Alle 13 il GR, alle 14 tutta scena cinema, alle 16 Attica Blues oltre alla Black Music. Alle 17 le schiene del Sol, il Mezzetes delle 18, Tarantola Rubra, alle 20 Apostasia a chiudere il palinsesto della radio come ogni sera dalle 23 e un pezzo. Il nostro saluto più importante va ovviamente a tutte e tutte coloro che ci hanno ascoltato da condizioni di limitata libertà personale, carcere, radinanza, clandestinità, arresti domiciliari, CIA, CPT e tutte le schifezze che servono per contenere i corpi dei migranti, forza, lavoro in eccesso. Questa è Radio Onda Rossa. Mercoledì prossimo non ci saremo, mercoledì successivo forse, se riusciamo, presentazione di una raccolta di un di punk band romani con due vecchi affezionati della trasmissione. Ce ne andiamo così sotto la luna comunista, dai! All my mind, with you by my side. comes to radical minds. Living on God. Let's all share dreams. All share dreams. Let's all share dreams. I'm gonna come in this moon. All share dreams. Let's all share dreams. All share dreams. I'm gonna come in this moon. Let's all share dreams. All share dreams. Let's all share dreams. I'm gonna come in this moon.